casa. Vite e storie dietro l'azienda. Sara Riff Sermonti, poligrafici editoriale tra hobby e quotidiani storici. Diana Marino. Parliamo di una passione senza tempo, di una passione molto concreta ed è la passione per l'equitazione per i cavalli, che mi lega molto alla nostra testata di settore Cavallo Magazine, che è una goccia, diciamo, nel mare della poligrafia editoriale, però che curo personalmente e che sono molto fortunata a curare, in quanto la passione per i cavalli nasce abbastanza lontano, circa una ventina d'anni fa, sull'esempio di mia nonna e poi di mio padre. È una passione un po' particolare perché richiede tante energie, tanti sforzi, tanto tempo e impegno anche economico. Mio padre non è riuscito a tenermi alla larga da questa passione e devo dire che sono molto fortunata, perché seppur col tempo, con gli impegni lavorativi e le responsabilità, il tempo che posso dedicare ai cavalli ovviamente è diminuito, però ho trovato la possibilità di conviverci tutti i giorni occupandomi appunto di Cavallo Magazine, come degli eventi che gravitano intorno, diciamo, a questa piccola grande testata. Segue le sue passioni. Questo la identifica con i lettori della rivista di famiglia dedicata all'Ippica. Sara Riff Sermonti ha 28 anni, è laureata in Bocconi ed è da poco mamma. Sono 6 anni che lavora nell'azienda di famiglia, ma fin da giovanissima ha vissuto le passioni che muovono Poligrafici Editoriale, la casa editrice del gruppo Riff Sermonti. Si tratta del quinto gruppo editoriale italiano controllata da Morriff S.p.A., la holding finanziaria della famiglia Riffser. L'azionista di maggioranza è Maria Luisa Monti Riffser, madre di Andrea Riffser Monti e nonna di Sara Riffser Monti. Quotidiano nazionale è il Network, la testata di collegamento tra i quotidiani del gruppo, Il Giorno, Il Resto del Carlino, La Nazione. E tra i periodici ci sono Onda TV Magazine, L'Enigmistica, Cavallo Magazine e Lo Sperone. Dalle attività del tempo libero sono nate le riviste e le comunità di estimatori e intenditori, senza limiti di età. Lo sa bene Sara Riff Sermonti, che ricorda il suo primo cavallo. Miss Sophie, il nome di mia madre, me lo regalarono facendomi promettere che poi l'avrei ospitata all'interno delle nostre scuderie per trascorrere la sua vecchiaia a Bagnaia, vicino a Siena, dove abbiamo una tenuta. Poligrafici Editoriale S.p.A. è nata nel 1977 a seguito dell'assorbimento delle società editrici dei quotidiani La Nazione e Il Resto del Carlino, che facevano capo ad esse. Acquisita dal gruppo Monti Riffser nel 1986, Poligrafici Editoriale S.p.A. è entrata nelle quotazioni di Piazza Affari, ma le sue origini, ricorda Sara Riffser Monti, sono ben più lontane. Io rappresento la quarta generazione, quindi perdonatemi se non entrerò così tanto nel dettaglio su la storia della mia prima generazione, perché comunque mi è un po' lontana, anche se ovviamente la curiosità e la voglia di documentarsi è sempre tanta. Mio bisnonno Attilio Monti cominciò la propria carriera, fra virgolette, distribuendo materie prime ai contadini in bicicletta, e fra queste materie prime c'era anche il petrolio e il carburante, diciamo, ecco. E però perché ho avuto un lapso e ho parlato di petrolio perché da lì poi è cresciuto ed è diventato un vero e proprio petroliere. Dopo la crisi ovviamente petrolifera degli anni 70 si reinventò e nel pacchetto Eridania, che comprò a quei tempi degli zuccherifici, c'erano anche due giornali, Il Resto del Carlino e La Nazione, e da lì è iniziata la storia dei nostri quotidiani. Ovviamente era un gruppo che comprendeva anche testate diverse, Il Piccolo di Trieste per esempio. Adesso rimane, secondo me, un patrimonio importantissimo come quello sempre del Resto del Carlino, della Nazione e del Giorno. Oggi c'è un ventaglio di proposte nell'editoria, ma con l'arrivo della seconda generazione è cambiato qualcosa. Prima grazie alla linea femminile e alla sua creatività, cui si sono aggiunti poi i sacrifici delle altre generazioni. C'è stato un primo cambiamento di approccio, ecco. La seconda generazione è quella di mia nonna, quindi una donna, un'imprenditrice molto creativa, ecco, quindi questo è stato il vero cambiamento, anche se il passaggio, il vero passaggio è stato fra mio bisnonno e mio padre. direttamente, che quindi si è trovato con non poche responsabilità sulle spalle, ha fatto tantissima gavetta e ormai sono più di 30 anni che gestisce l'azienda. E il messaggio tra generazioni è stato il binario su cui ha viaggiato l'azienda per anni. La trasparenza e l'onestà, non voglio ovviamente dire che siamo perfetti, bravi e tutto, voglio semplicemente dire che dobbiamo essere onesti fra di noi in famiglia che gestiamo, ma soprattutto essere onesti con i nostri dipendenti e trasparenti. Questo comporta sia trasparenza nei momenti nei momenti diciamo più positivi che anche in quelli negativi ovviamente, e anche l'immediatezza nel prendere decisioni. Ecco, credo che questo ci rappresenti abbastanza in quanto siamo un'impresa familiare ed è ovviamente più facile in un contesto come il nostro. E nel bagaglio di storia familiare che Sara Riffesermonti porta con sé c'è anche la multiculturalità. Le radici sono importantissime perché ci ricordano da dove veniamo. Il mio bisnonno è di Ravenna, quindi romagnolo, e mio padre è nato a Milano, però io ho un po' di sangue gardenese da parte di mio nonno, mentre da parte di mia mamma metà francese e metà svedese, quindi credo che anche un po' di questa multiculturalità mi possa aiutare, almeno lo spero. Nel 1997 acquista dalla Sogedit le azioni della editrice Il Giorno e della Nuova Same, che si occupava della stampa del quotidiano nazionale Il Giorno. Nel 97 è stato scorporato il ramo aziendale della stampa del quotidiano La Nazione a favore della controllata Case Nuove SRL, ora Centro Stampa Poligrafici SRL. Nel 2000 il gruppo ha rilevato il 45% di Dada, società di servizi internet, e ha acquisito il controllo di Press Alliance, editrice del quotidiano France Soir, ceduta per il 70% nel 2004 alla britannica Montaigne Press Ltd. La famiglia ha saputo trasformare azienda e organizzazione del lavoro nel tempo, a seconda delle esigenze e della crescita. Abbiamo dei manager sicuramente molto validi che ci aiutano e ci assistono in tutte le varie attività che presidiamo. Ecco, finché c'era mio padre doveva occuparsi di tutto, e con l'arrivo in azienda mio e dei miei fratelli dopo di me o contemporaneamente a me, quello che ci è permesso è la suddivisione dei compiti in base a determinati ambiti, rispettando anche quelle che sono le propensioni di ognuno, per esempio. Infatti mio padre rimane molto sulla carta, quindi occuparsi di tutta la parte editoriale, soprattutto di marketing e di gestione ovviamente. Mio fratello Matteo è presidente di Morrifnet, la società a cui ovviamente Poligrafici ha delegato tutto lo sviluppo digitale e tecnologico, e devo dire che seppur molto giovane quando ha iniziato è l'unica persona in azienda veramente preparata in questo settore, credo che abbia dato tantissimo. Morrif S.p.A. oltre al settore editoriale raggruppa sotto di sé Gruppo EGA, Emiliana Grandi Alberghi, settore alberghiero. Possiede gli alberghi Royal Hotel Carlton a Bologna, Royal Hotel Garden e Hotel Hermitage a Milano e Morrifnet nel settore internet. L'ingresso di Sara Riffesermonti è legato a queste attività, ma poi è andato oltre. Io inizialmente mi occupavo della gestione dei nostri 4 alberghi fra Milano e Bologna e poi mi sono, diciamo, ho approcciato il mondo della pubblicità. Infatti io ho sede a Milano mentre gli altri rimangono a Bologna. La media giornaliera di lettori di QN, quotidiano nazionale, è di 2,2 milioni, al terzo posto tra i giornali di informazione più letti. Ma la storia è da sempre nelle pagine del Resto del Carlino di Bologna. Beh, mio padre è molto legato al Resto del Carlino perché rappresenta la sua città. Ovviamente la storia di mio padre con Bologna probabilmente è nata insieme al Resto del Carlino, però essendo un giornale che appunto l'anno prossimo festeggerà i 130 anni, sente molto la responsabilità che questa testata ha nei confronti del territorio, stessa cosa per La Nazione. Il Giorno ovviamente ha un ruolo altrettanto importante, soprattutto per quanto riguarda la Lombardia, è un giornale un po' più giovane, ecco, diciamo. Però devo dire che Il Giorno mio padre l'ha sempre sognato, ecco, diciamo, quindi è riuscito a realizzare un sogno, ecco, acquistando Il Giorno. Nel settore dei new media, la Poligrafici editoriale è presente con Morrifnet, la internet company del gruppo che gestisce il portale di informazione online quotidiano.net, con con partecipazioni strategiche in Dada, importante internet provider italiano, e in Logital, società di software. Nel settore internet, quotidiano.net si conferma al quarto posto nel settore news. Obiettivo: guardare al futuro con idee anticrisi. A fronte di un calo drastico delle copie in edicola, abbiamo ovviamente sviluppato un sito web che deve aiutare a rafforzare il brand, perché soprattutto per una rivista specializzata quello che è importante è il brand, l'autorevolezza del brand. Quello che dice il brand Cavallo Magazine è vero, è valido, è autorevole. Questa è una cosa molto importante. I nostri lettori si devono riconoscere nel nostro brand, quindi essendo un magazine mensile, dare continuità tutti i giorni con un aggiornamento continuo dell'online è fondamentale. Il secondo step ovviamente è stato il presidio di tutti i social network, qualsiasi essi siano, e abbiamo visto che anche questo fidelizza e soprattutto attrae un nuovo tipo di target, che è quello dei giovani, che sicuramente non va in edicola a comprarsi la rivista, anche se noi abbiamo invece lettori magari di una certa età che invece la collezionano dal primo numero. Terzo step è stata l'internazionalizzazione. Ovviamente con la carta stampata questo non è possibile, ma col web sì. Quindi abbiamo creato un sito web che è cavallomagazineinternational.com, che dà notizie in inglese. Non sono la replica delle notizie in italiano, ma sono proprio notizie a livello internazionale. Non solo si occupa della rivista dedicata alla sua passione, i cavalli, ma Sara Riff-Sermonti ama scrivere ed è aspirante giornalista. Mi affascina molto, ho scritto qualche pezzo qua e là, ovviamente non sotto il mio nome. Scrivo ogni tanto sulla testata appunto di Cavallo Magazine, perché quando si scrive di una passione credo sia più facile. Ammetto però di non aver fatto una scuola, e questa cosa mi manca abbastanza, ma è proprio durante questi mesi di maternità che ho deciso di darmi alla scrittura, perché ho deciso di sostenere l'esame da giornalista professionista. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.